America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. We are going to beat the Democrats, we are going to beat Hillary or whoever it may be, and we're going to beat them soundly. Beh, un dibattito repubblicano, quello di ieri sera, che ha visto un Donald Trump molto calmo. Abbiamo delle elezioni la settimana prossima e questo dibattito non ha fatto scintille come in passato. Come ieri, non vorrei dilungarmi troppo sulle elezioni americane, ne abbiamo parlato parecchio, continueremo a parlarne, ma devo dire, poi la vita va avanti, le notizie si accumulano. Ieri, per esempio, alla Casa Bianca il presidente degli Stati Uniti ha accolto Justin Trudeau, una cena di Stato, una delle rare cene di Stato di Obama in onore del premier canadese. Ma soprattutto quello che mi ha colpito è un'intervista che Barack Obama ha concesso ad Atlantic sulla sua politica estera. We have been very clear to the Assad regime that a red line for us is we start seeing a whole bunch of chemical weapons moving around or being utilized. That would change my calculus. Barack Obama parla di alcune questioni generali, rivendica il suo approccio realista, cioè gli Stati Uniti non sono il gendarme del mondo, è inutile intervenire dappertutto. Punto secondo, sulla Siria, sì, qualcuno, lo stesso Biden, mi ha detto che ho fatto un errore a non intervenire dopo la mia promessa di bombardare se Assad avesse usato delle armi chimiche, però alla fine la cosa è andata bene così. Beh, non molti concordano, ma comunque questa è la posizione del presidente. Anche sull'Ucraina Obama dice le sanzioni hanno funzionato e stanno funzionando. Ecco, però in questa intervista la cosa più interessante è il commento di Barack Obama sulla Libia. Il presidente ha ammesso di aver commesso degli errori, però ha attaccato alcuni degli alleati, soprattutto Gran Bretagna e Francia, che ha definito approfittatori, scrocconi, dei free riders li definisce, cioè quelli che un po' saltano sul treno per farsi un viaggio gratis, cioè volevano farsi belli, secondo il presidente degli Stati Uniti, sulle spalle dell'America per guadagnare influenza e per far vedere che passavano all'azione. Per esempio Sarkozy aveva ordinato dei bombardamenti aerei, dice Barack Obama, quando noi americani avevamo già distrutto il sistema di antiaerea libico, dunque non correvano nessun rischio. Ecco, in tutta questa sua analisi sulla Libia, Barack Obama non parla mai dell'Italia. Ecco, visto il contesto che in generale è negativo, non so se questo sia un bene o sia un male, però è una riflessione importante, cioè sembra che in qualche modo non si lasci il segno, cioè se il presidente americano fa un suo bilancio di un capitolo importante di una pagina di storia della sua amministrazione in una regione che ci riguarda direttamente, che ci ha visti molto attivi e impegnati, questo forse è altrettanto significativo al fatto di aver menzionato la Gran Bretagna e la Francia con un tono negativo. Ecco, l'altro giorno, per esempio, alcuni nostri diplomatici mi raccontavano di quanto il nostro ruolo sia stato importante in tempi recenti per la gestione della crisi libica. Verissimo, il segretario di Stato John Kerry è venuto a Roma, ha apprezzato l'azione del nostro governo per aver ospitato delle conferenze di pace, devo dire, produttive per il nostro ruolo di mediazione e così via, così via. Ma partiamo dall'inizio e vediamo perché Barack Obama ha deciso di intervenire in Libia. Sentiamo. For more than four decades, the Libyan people have been ruled by a tyrant, Muammar Gaddafi. Ecco, Obama racconta che l'ordine sociale in Libia era andato in fumo. L'opzione numero uno non era quella di far nulla. C'era qualcuno dell'amministrazione che diceva che non era un nostro problema, perché anche se la situazione libica fosse tragica, racconta Obama, non dovevamo andarci a mischiare di nuovo in Medio Oriente. Il problema, racconta il presidente, è che Gheddafi aveva detto che avrebbe ucciso come dei topi tutti coloro che avevano resistito contro il suo regime. Ecco, e Obama continua a raccontare, c'è l'Europa e un certo numero di paesi del Golfo che non amavano Gheddafi ed erano preoccupati dalle condizioni umanitarie, chiedevano un'azione. La soluzione migliore sarebbe stata quella di agire con una coalizione internazionale. Poi l'idea fu quella di bombardare e, dice Obama, io mi auguravo, speravo, ero sicuro che i paesi della regione, soprattutto la Gran Bretagna e la Francia, appunto, che spingevano per un'azione, si fossero poi assunti delle responsabilità più specifiche per gestire il dopo, per gestire una situazione che sapevamo rischiava certamente di non stabilizzarsi. Ecco, in generale devo dire, Obama scarica sugli altri molte delle sue responsabilità, fa capire appunto che dietro l'attacco a Gheddafi ci fossero queste pressioni di francesi, di inglesi che magari avevano degli interessi economici. Il bilancio di tutto questo è che non mi pare che emerga un quadro edificante del ruolo delle grandi potenze da questa intervista con Obama. E torno al nostro ruolo, torno al ruolo dell'Italia che non è mai menzionato. Vi ripeto, non so se sia un bene o un male non essere stati parte di questa equazione che tutto sommato è negativa, però so che forse non abbiamo ancora quella strada che pensiamo di avere per rivendicare quel ruolo che ci spetta, un tavolo dove si parla di temi rifugiati, petrolio, temi economici che ci riguardano molto direttamente. E se un presidente degli Stati Uniti come Barack Obama non parla di noi quando si riferisce a una regione nella quale abbiamo interessi diretti e vitali, soprattutto, come dicevo, sul piano economico, umanitario e politico, beh, forse vuol dire che non entriamo come pensiamo di entrare nel suo radar. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com. Seguiteci su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, direi che la parte centrale della chiacchierata di oggi riguarda l'eredità politica, di politica estera, di Barack Obama, e dunque ho pensato a una canzone, potremmo chiamarla l'eredità, che vi propongo, di Eminem, Legacy. I used to be the type of kid that would always think the sky is falling. Why am I so differently wired? Am I a Martian? What kind of twisted experiment am I involved in? Cause I don't belong in this world. That's why I'm scoffing at authority, defiant often, flying off at the handle at my mom. No dad, so I am non-compliant at home. At school, I'm just shying awkward, and I don't need no goddamn psychologist trying to diagnose why I have all these underlying problems, thinking he can try and solve them. I'm outside chalking up drawings on the sidewalk and in the front drive talking to myself. Either that or inside hiding off in the corner somewhere quiet, trying not to be noticed cause I'm crying and sobbing. I had a bad day at school so I ain't talking. Some cocksucker shoved me into a fucking locker cause he said that I eyeballed him. This is my legacy. Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going.